Innanzitutto benvenute in questa casa, e in questa casa che sarà in questi prossimi giorni il luogo del vostro incontro più ravvicinato, più intimo, più intenso con Gesù, attraverso l'intercessione del cuore di Maria, che è sua madre, nostra madre, e a noi servono questi giorni di ritiro, di silenzio, di raccoglimento, di preghiera, di distacco dalle attività abituali, e per poter entrare più in intimità con il Signore, per conoscerlo meglio, per conoscere Lui e conoscere noi stessi, e quale luogo migliore del cuore di Maria, no? per poter realizzare questo dialogo, questa conoscenza maggiore. Lei che è la persona che sulla terra meglio ha conosciuto il Signore, anche adesso in cielo, no? Con Lui sempre, da quando è stata assunta in cielo lo ha ripreso con sé, sono entrambi con il corpo e con tutta la loro persona, con il corpo risorto, che stanno in questa realtà, in questa dimensione che a noi è sconosciuta, ma noi crediamo che stanno, che sono vivi, che sono presenti. E lei è colei che lo ha generato come uomo, è colei che lo ha cresciuto, lo ha allattato, lo ha vestito, lo ha custodito insieme con Giuseppe. E ha custodito nel suo cuore, come dice il Vangelo ben due volte, no? Che Maria custodiva tutte le cose che vedeva accadere a suo figlio che è anche Dio, che è anche il figlio di Dio, figlio suo e figlio di Dio. Ha visto questo bimbo crescere, questo adolescente distaccarsi un po' da lei, questo giovane imparare a entrare nel mondo dei coetanei, degli amici, del lavoro, e ha contemplato quest'uomo che è figlio suo e figlio di Dio, che è venuto ad abitare in mezzo a noi. Come dice il prologo del Vangelo di Giovanni, è venuto a mettere la sua tenda in mezzo a noi, il Verbo che era fin dall'inizio, in principio era Dio, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio, e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Questa verità della fede che per noi è in un certo senso è abituale da considerare, perché la contempliamo lungo tutta la vita. E pensate tutti i Natali che abbiamo vissuto, no? Fin da bambini, quando costruiamo il presepe con molto amore, con molta devozione, no? fin da bambini abbiamo contemplato questo mistero. I nostri genitori ci hanno aiutato, i nostri catechisti, le nostre nonne, a contemplare questo mistero, per cui noi ci muoviamo in questo mistero con un certo agio, anche se è una realtà sempre nuova da contemplare, sempre necessaria. Diceva Giovanni Paolo II nella sua prima enciclica sul Verbo incarnato, sul Redentore dell'uomo, che la Chiesa non si stanca mai di continuare a meditare, a indagare, a contemplare questa realtà del Dio fatto uomo, a conoscere ogni particolare della sua esistenza e a entrare in questo mistero. In fondo anche tutta la liturgia che ci aiuta continuamente ad entrare dentro a questo mistero. Ce lo presenta e ci fa entrare. Ecco, Gesù venne ad abitare in mezzo a noi e lui stesso invitò i primi 2 discepoli a entrare nella sua casa, no? Venite e vedrete, Maestro, dove dimori? Venite e vedrete. Gesù invita a entrare nella sua casa, così invita anche oggi noi a fare questa operazione di entrare nella sua casa per poter stare con lui, per poter parlare con lui, stettero con lui tutto quel giorno, erano circa le 4 del pomeriggio. E da lì, da questo stare con lui, da questo dimorare con lui, da questo dialogare con lui, di cui il Vangelo non dice nulla, cioè non dice nulla di quel dialogo. Il Vangelo avrebbe potuto dire molte più cose, invece è essenziale per una misteriosa provvidenza divina. Possiamo pensare proprio perché ciascuno di noi deve poter avere la sua conversazione con Dio, la sua conversazione personale, il suo incontro. Ed entrando in questa, cioè il primo invito a entrare nella sua casa, noi lo possiamo cogliere come l'invito a conoscere la sua prima casa, che è proprio Maria, il primo luogo dove il Verbo che si è fatto carne ha messo la sua tenda, è proprio il grembo di Maria. Allora, se noi cerchiamo di entrare in questo grembo, di entrare in questo cuore immacolato di Maria, come viene chiamato nella devozione della Chiesa, oppure anche il cuore dolcissimo di Maria, così piaceva anche a San José Maria chiamarlo, e a un certo punto della storia della sua vita consacrò se stesso e anche tutta la realtà che il Signore gli aveva chiesto, tutta la famiglia che il Signore gli aveva chiesto di generare, la famiglia spirituale. Andò a Loreto, no? E nella casa di Maria, quella che era a portata di mano, rispetto a quella alla grotta di Nazareth, no? Che fece il 15 agosto del 1951 un affidamento totale di sé e anche di tutta l'Opus Dei, perché aveva bisogno di protezione, no? Di materna, e lo chiamò il cuore dolcissimo di Maria, cuore dolcissimo di Maia, iter patutum, cioè custodiscici, conserva e prepara un cammino sicuro, il cammino sicuro della nostra vita cristiana, della nostra santità. Il 14 febbraio nell'Opus Dei si ricorda il momento in cui il Signore gli ha detto al fondatore, ecco, di aprire il suo cuore, la sua vita, la sua casa, l'Opus Dei alle donne, dopo che aveva cominciato da poco, da un anno e mezzo circa, no, a lavorare per questo progetto divino. Allora quel giorno noi nei centri dell'opera celebriamo la festa, la memoria della Beata Vergine Maria, Madre del Bell'Amore, che nel messale, nel lezionario, messale lezionario delle messe di Maria, no? Ce ne sono tante, si usano soprattutto nei santuari, è molto ricco, è molto bello, pieno di, insomma, ci sono un sacco di messe molto, molto suggestive sui vari titoli che Maria ha nella Chiesa, che si attribuiscono attraverso la scrittura, e questo è uno. Allora noi celebriamo questa festa, Madre, Beata Vergine Maria, Madre del Bell'Amore, e si applica a Maria dal libro del Siracide delle parole che per sé sono dette della sapienza di Dio, e dicono così queste parole: io come vite ho prodotto splendidi germogli e i miei fiori danno frutti di gloria e di ricchezza. Io sono la madre del bell'amore e del timore, della conoscenza e della santa speranza. Eterna sono donata a tutti i miei figli, a coloro che sono scelti da lui. Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate, e saziatevi dei miei frutti, perché il ricordo di me è più dolce del miele, il possedermi vale più del favo di miele. Quanti si nutrono di me avranno ancora fame, quanti bevono di me avranno ancora sete. E ecco da dove viene il titolo di Madre del Bell'Amore, applicato a Maria, che è la madre di Gesù, che è Dio e che quindi è amore. Dio è amore, quindi questo complimento che una madre fa a suo figlio da sempre e per sempre, in tutta la storia dell'umanità, in tutta la sua geografia, no? E lo chiama amore, lo chiama bello. Allora, questo bell'amore, nel caso di Maria, questo complimento al frutto del suo seno è il più adatto, e si compie nella pienezza della verità. Dio è l'amore, Dio è la bellezza, e questa bellezza e quest'amore nel suo grembo si fanno uomo. Si fanno uomo. E quindi ci attraggono, come ci attrae la bellezza, come ci attrae l'amore. E lei ci presenta Gesù, noi le chiediamo che in questi giorni, ecco, chiediamo lei, chiediamo allo Spirito Santo, che è lo Spirito, no? Che è l'amore tra il Padre e il Figlio, che che ci svegli qualcosa se lo desiderano, e noi lo desideriamo, qualcosa di più o di nuovo o di più profondo nella conoscenza di Dio, nella conoscenza del Verbo, nella conoscenza di Dio che si è incarnato, nell'approfondimento di questo mistero, che deve poterci dire molte cose, molte più cose. Lei in quella messa del 14 febbraio, della Madre del Bell'Amore, che noi celebriamo il 14 febbraio, si legge il Vangelo della presentazione al Tempio, no? I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa, ma trascorsi i giorni mentre riprendevano la via del ritorno. Il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Squarcio, nella meraviglia nascosta della vita di Gesù lungo quegli anni di normalità e che il Vangelo non, su cui il Vangelo non entrano se non con una breve frase. E da un lato è un episodio che ci rende molto vicini a Maria e Giuseppe. Qualunque genitore ricorda episodi simili, preoccupazioni, spaventi, fughe, non so, dei figli scomparse. Qualunque genitore, soprattutto le madri, ricordano tantissimi particolari, tantissime parole dei figli. E Maria ricorda tutto, il Vangelo dice solo questo episodio, però dice tutte queste cose, e lo dice un'altra volta. Per cui noi possiamo chiedere a lei che ci sveli, ecco, i segreti di Gesù. Quindi ci interessa conoscere innanzitutto questo primo luogo, questa prima casa nella quale Gesù ha abitato, che è il suo grembo. Nell'orazione colletta di quella messa si chiede a Dio, così: «Dio d'eterna sapienza e di infinito amore, che dal talamo purissimo di Maria hai fatto uscire lo sposo della Chiesa, Gesù Cristo tuo figlio, il più bello tra i figli degli uomini, per intercessione della sua gloriosa madre, dona letizia e pace a tutti i popoli, e fa splendere la tua santità nei nostri cuori. La Chiesa e noi con la Chiesa crediamo che questo concepimento, questa nascita, questo venire Dio ad abitare in mezzo a noi, come uno di noi, questo farsi parte del genere umano, si è unito in un certo senso ad ogni uomo, dice il Concilio Vaticano II, con l'incarnazione si è unito in qualche modo ad ogni uomo. Dio si è unito ad ogni uomo, ormai Dio è uomo per sempre, per tutta l'eternità. Allora questa grazia infinita, immensa, incommensurabile, che non potremo mai comprendere del tutto, che è un mistero che ci supera, però sappiamo che dà letizia e pace a tutti i popoli. E può far splendere la santità nei nostri cuori. Una santità che il Papa parla, scrive. Splendido intervento, documento che si chiama Gaudete ed Exultate, l'esortazione apostolica sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo. Ed è una santità, il Papa ci tiene molto a sottolineare questo aspetto, che viene da Dio. Il secondo sinodo di Orange, un sinodo che si fece proprio per l'eresia pelagiana che utilizzava dottrine di Sant'Agostino, che però disse ad altro modo, se vi interessa, ecco, andarlo a trovare, troverete espressioni molto forti in cui Chiesa dice che tutto viene da Dio, no? Qualunque preghiera che noi desideriamo fare viene da Dio, qualunque desiderio buono, qualunque. No? Il Papa cita questa tratante frase di quel concilio, di quel sinodo: persino il desiderio di essere puri si attua in noi per infusione e operazione su di noi dello Spirito Santo. C'è una delle affermazioni in questione, se lo si legge nel Denzinger, no? Che è il volume che raduna tutte le affermazioni dogmatiche della Chiesa, no? Fin dall'inizio, è impressionante perché non ti lascia spazio a pensare che qualcosa dipende da te, no? Dice, se uno pensasse che è venuto da lui il desiderio di pregare, per cui dopo, ecco, ha avuto quella grazia e non pensasse che fin dall'inizio anche il solo desiderio di pregare, di chiedere, era ispirato dalla grazia di Dio, anathema sit, cioè non è cattolico, non è credente, non è ortodosso, non so come dire. Con quelle espressioni così forti, no? che usavano allora. Poi cita anche il Concilio di Trento, si afferma che siamo giustificati gratuitamente perché nulla di quanto precede la giustificazione, sia la fede, sia le opere, merita la grazia stessa della giustificazione. Perché se è grazia, allora non è per per le opere. Altrimenti la grazia non sarebbe più grazia. Concilio di Trento. Cioè, tutto quello che noi facciamo di buono o la nostra fede stessa, tutto viene da Dio. Nulla è da noi meritato, in senso stretto. E poi cita il Catechismo della Chiesa Cattolica, ci ricorda che il dono della grazia supera le capacità dell'intelligenza e le forze della volontà dell'uomo, e che nei confronti di Dio, nel senso strettamente giuridico, non c'è merito da parte dell'uomo. Tra lui e noi la disuguaglianza è smisurata. E in questo Maria, con la sua stessa vita, ci dice che è così. Pensate alla meraviglia del dogma dell'Immacolata Concezione che noi crediamo. Lei è stata santificata pienamente, cioè ha avuto il privilegio di essere concepita piena di grazia, quindi senza quella carenza di grazia che costituisce, secondo la teologia cattolica più diffusa, l'essenza del peccato originale. Essere concepiti senza quella grazia di Dio che era nei progetti di Dio che noi potessimo avere fin dal primo istante della nostra vita, fin dal primo istante del concepimento. Maria è stata concepita nel seno di sua madre Anna, così narra la tradizione che si chiami, e attraverso l'amore di suo padre Gioacchino, piena di grazia, che merito poteva avere lei, che ancora non esisteva? Nessun merito. E il ricettacolo totalmente innocente, totalmente bello, totalmente limpido, ma totalmente, come dire, senza nessuna superbia di pensare me lo sono meritato, no? È tutto gratuito, è tutto dono di Dio, la sua vita, la nostra vita, la grazia che lei ha ricevuto nel primo istante della sua esistenza. E così, in modo diverso, noi l'abbiamo ricevuta nel battesimo, ma e poi dopo, lungo tutta la vita, qualunque grazia noi riceviamo è pura grazia, cioè non è meritata da noi. Ma io ho pregato, ma quella preghiera è una grazia, è un dono. Ovviamente il Signore ha deciso, ha pensato che la nostra corrispondenza possa, ma perché lo desidera lui, avere, perché lo decide lui, avere una, poter essere, diciamo così, premiata, no? Allora questo, a mio parere, è una delle verità della fede cattolica più consolanti, più rasserenanti, anche se per applicarla noi dobbiamo continuamente meditarla e fare tante altre cose ricchissime di questo documento Gaudete ed Exultate. E il ricordo di questa verità della fede ci è molto utile. E noi, contemplando Maria piena di grazia, noi contempliamo che tutta quella grazia è un dono che gli viene da Dio in modo immeritato. la sua vocazione a diventare la madre di Dio è una scelta di Dio, è un dono immeritato, è un puro dono. Poi sicuramente il suo successivo sì si faccia in me, secondo la tua parola, diventi pure il mio grembo, la prima casa del verbo di Dio che viene ad abitare in mezzo a noi e rallegra infinitamente il Signore. E la rende sempre più santa, possiamo dire così in qualche modo. Nel prefazio di quella messa si leggeva: e noi ti lodiamo e ti glorifichiamo a Dio, Signore Padre Santo, per la bellezza ineffabile che splende nella Beata Vergine Maria, bella nella sua concezione, immune da ogni macchia di peccato, tutta avvolta nel fulgore della tua grazia, bella nel parto virginale, in cui diede al mondo il Figlio, splendore della tua gloria, nostro fratello e Salvatore, bella nella passione del Cristo, imporporata dal suo sangue, come mite agnella unita al sacrificio del mitissimo agnello, insignita di una nuova missione materna, bella nella risurrezione del Signore con il quale regna gloriosa, partecipe del suo trionfo. Questa bellezza di Maria è la bellezza di nostra madre, è una bellezza che viene da Dio. E allora noi possiamo pensare e sperare che questa bellezza generi in noi bellezza, che Dio nostro Padre e che Maria nostra Madre ci generino ancora una volta in questi giorni alla bellezza, e noi cercheremo di corrispondere, come Maria, con il nostro sì alle grazie che il Signore ci dà, ci sta dando, ci ha dato e chiediamo che ci dia in questi prossimi giorni.